Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono nella bella Verona, sono nella Basilica di San Zeno, una delle più belle chiese romaniche d'Italia, e davanti a me ho uno spettacolo vero e proprio, cioè la grande pala d'altare che alla metà del 400 Andrea Mantegna collocò nel posto più o meno dove la vediamo noi oggi. Un capolavoro della pittura rinascimentale, una vera e propria architettura dipinta, perché Mantegna concepì innanzitutto la cornice, la disegnò lui, una cornice che immagina un loggiato. Noi vediamo le colonne sul fronte e poi dietro, illusionisticamente, immaginiamo un loggiato dove si trova la Vergine Maria e tutti i santi che le fanno corona, tra l'altro in un ambiente spettacolarmente ricco di marmi, perché Andrea Mantegna adorava il marmo, una sorta di pittore del marmo. Poi questa struttura ha nella parte bassa la cosiddetta predella, cioè delle storie più piccole, rettangolari, che si riferiscono spesso ai personaggi che si sono nella predella in alto. È un miracolo vederla, anche perché questo dipinto, come tanti dipinti italiani, ha subito delle traversie incredibili. Innanzitutto cambiò la posizione, diciamo così, delle finestre. Mantegna aveva immaginato, ha fatto aprire una finestra apposta perché la luce entrasse come voleva lui. Quella finestra fu alterata. Poi, durante le campagne napoleoniche, un quadro così non sfuggì ai soldati di Napoleone. Venne portato tutto quanto a Parigi, la cornice e quadro. Poi, quando l'Italia richiese, la Repubblica Veneta e gli stati richiesero il dipinto, glielo mandarono, ma non completo. Mancava completamente la predella. Oggi bisogna andare nei musei francesi per vedere la predella. Fu sostituita da delle copie. E uno dice, bene, la storia è finita. No, a un certo punto negli anni 70 ci fu anche un clamoroso furto. Riuscirono a portar via un pezzo di questo politico e con delle rocambolesche vicende venne ricomposto. E quindi adesso noi ci possiamo godere questa meraviglia, tenendo conto che però la predella dobbiamo andarla a vedere in Francia. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.